Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io mi posso impegnare, glielo dico qui in televisione così rimane registrato, che se il segretario ci concederà di fare le primarie a settembre-ottobre, io non sarò mai parte di un movimento scissionista. Sono a disposizione del segretario per organizzare le primarie in modo familiare, amichevole. Voglio ricordare che queste non sono elezioni di avversari politici, sono elezioni primarie tra compagni di partito, quindi una cosa completamente diversa. Avete sentito Emiliano, care ascoltatrici, cari ascoltatori, Emiliano che sapete si candida a segretario del Partito Democratico. Siamo a due giorni dall'assemblea del PD e si sta consumando o no questa scissione. Parrebbe oggi, in questa giornata convulsa in tentativi di mediazione, che si apra uno spiraglio. Emiliano qua era ad Agorà questa mattina su Rai 3, in realtà poi si era lamentato che da Renzi neanche una telefonata, c'era stato anche questo fuori onda di Del Rio di cui parleremo, poi Renzi lo ha chiamato, c'è stata una lunga telefonata tra loro che parrebbe aver ricucito un po' i rapporti, però alcuni dicono no, in realtà alcuni della minoranza sono già fuori, hanno già deciso, stanno già creando un loro partito. Lo scopriremo man mano, almeno nel senso con le riflessioni che cercheremo di fare, e poi si saprà probabilmente nel fine settimana. Intanto c'è anche Pisapia col suo campo progressista, che ha messo in campo per l'appunto un nuovo movimento, che dice sarebbe, se il PD si scindesse, sarebbe una sciagura per il paese. Che ne pensate? Parleremo naturalmente anche di altro, ci collegheremo con gli Stati Uniti perché c'è una proposta veramente inedita di Trump, anche se poi la Casa Bianca smentisce, di utilizzare la Guardia Nazionale, 100.000 uomini della Guardia Nazionale, per stanare i clandestini nei vari stati degli Stati Uniti. Ci sarà poi il meteo, parleremo anche della partita Juventus-Palermo, anticipo di Serie A, che vedo già 1-0 in vantaggio per la Juventus. Insomma, come sempre, un sacco di notizie, non perdete mai Effetto Notte da lunedì al venerdì dalle 21 alle 22, anche questa sera insieme con molte notizie, commenti, approfondimenti, eccetera, per la vostra interazione. Qui col programma, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, che lì per voi giorno e notte, oppure il numero per i messaggi e WhatsApp, che è 349-238-6666. Partiamo come sempre dal riassunto della giornata. Il travaglio del PD, giornata convulsa in cerca di una mediazione per scongiurare la scissione, telefonata di Renzi a Emiliano che propone le primarie in autunno e congresso a partire da giugno. E a Rimini, Sinistra Italiana ha aperto oggi il suo congresso fondativo. Statali, approvati decreti per i furbetti del cartellino, via libera al licenziamento entro un mese. Stati Uniti, proposta senza precedenti di Trump per stanare i clandestini, utilizzare 100.000 uomini della Guardia Nazionale. Ma la Casa Bianca smentisce, intanto Harvard rifiuta il posto di Flynn alla sicurezza nazionale. Movimento 5 Stelle, lo stadio della Roma agita i pentastellati, ma Grillo ammonisce, la deputata Lombardi dice decide il Campidoglio. Sostenitori della sindaca oggi in piazza, Virginia non sei sola. Migranti in centinaia sfondano la barriera a Ceuta, oltre 5.000 i morti nel Mediterraneo nel 2016. Tassisti, prosegue la protesta contro il noleggio, servizio non garantito a Roma e Milano. Ancora un femminicidio in un appartamento a Como, trovata una donna uccisa a coltellate e un uomo ferito, si ipotizza un omicidio e un tentativo di suicidio. Corea del Sud ha arrestato Lee Jang-yong, proprietario e vicepresidente di Samsung. Acquisizioni, Kraft mette sul piatto 143 miliardi per Unilever, ma gli olandesi respingono l'offerta. Germania, allarme per una bambola spia, le autorità chiedono il ritiro, si chiama Kyla, si collega con smartphone e via app a internet. E per il calcio, anticipo di Serie A in campo Juventus-Palermo. Partiamo quindi dalla politica italiana, dalle ultime mosse decisive per scongiurare la scissione nel PD. Oggi c'è stata una lunga telefonata, vi dicevo, che ha aperto un canale di dialogo tra Renzi e Emiliano a due giorni dall'assemblea del PD, che è domenica. Emiliano avrebbe ribadito al segretario le richieste di non fissare il congresso subito, ma tenerlo dopo le amministrative di giugno e tenere le primarie a fine settembre o ottobre. Lo ha anche rassicurato che se il PD dovesse perdere le comunali, la minoranza non addosserebbe a lui, a Renzi, la colpa. Critico Del Rio, che in un fuori onda onda durante un convegno, lamenta: da Matteo nemmeno una telefonata per evitare la scissione. Poi corregge, dice: Renzi ha fatto un appello per togliere gli alibi, molto più di una telefonata. E tra poco ritorniamo su questo profondo travaglio del Partito Democratico. Nel frattempo oggi si è aperto a Rimini il congresso fondativo di Sinistra Italiana, che si candida a riunire, come ha già fatto nei gruppi parlamentari, gli ex di Sinistra Ecologia e Libertà, il partito di Vendola, con transfughi del PD come Fassina e da Torre. Dobbiamo rilanciare i valori della sinistra, spiega il leader designato, il vendoliano Nicola Fratoianni, al microfono di Vincenzo Miglietta. Un punto per chi pensa che sia necessario ricostruire un partito, una forza politica di sinistra, perché è capace di rimettere in ordine le priorità che abbiamo davanti, capace di discutere di merito, di contenuti, di proposte, capace di mettersi al fianco e di farlo in modo chiaro, netto, senza tentennamenti di chi sta in basso, di chi è rimasto indietro, di chi subisce di più il peso della diseguaglianza, della marginalità, dell'esclusione, della precarietà che cresce. La sinistra serve a questo, noi vogliamo essere questo, senza presunzione di autosufficienza, senza arroganza, con la curiosità, la disponibilità, spero, se ci riusciamo, l'intelligenza di potersi confrontare con tanti e tante che oggi discutono nel PD, fuori dal PD, però con una sola condizione, o meglio con una sola richiesta, una sola proposta: facciamolo sul merito delle questioni, confrontiamoci su come si fa a migliorare la vita di chi una vita buona non ce l'ha. La sinistra è utile se fa questo. E i problemi e le tensioni non mancano nemmeno in casa 5 Stelle, il terreno di scontro è ancora lo stadio della Roma. Una vicenda che continua a far discutere, quella dello stadio della Roma. Questa volta gli attacchi partono dalla deputata Roberta Lombardi, che si scaglia pesantemente contro il progetto, definendolo senza mezzi termini una speculazione immobiliare. Non ci sto a vedere Roma martoriata per soddisfare la volontà di qualche imprenditore, scrive l'esponente grillina, da sempre critica con la Raggi. Bisogna annullare la delibera che stabilisce la pubblica utilità, una presa di posizione che viene subito stoppata da Grillo. Sullo stadio della Roma decidono giunta e consiglieri. Al leader sul blog, i parlamentari pensino al loro lavoro. Parole chiare che fanno correggere il tiro alla Lombardi. Massimo sostegno verso giunta e amministrazione, scriverà poco dopo la deputata su Facebook. I miei dubbi sono gli stessi espressi dalla sindaca. Mentre Luigi Di Maio definisce il dibattito surreale, i cittadini di Roma hanno altri problemi e per tentare di dirimere la vicenda Grillo potrebbe incontrare i parlamentari lunedì e forse anche la Raggi. E intanto, a sostegno di quest'ultima, alcuni attivisti si sono riuniti in piazza del Campidoglio. Virginia, non sei sola, hanno gridato: vai avanti, non mollare. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E ora parliamo di pubblica amministrazione. Questa mattina il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti Madia bis sul taglio delle partecipate e il licenziamento lampo per i cosiddetti furbetti del cartellino. Dopo i rilievi della Consulta, il governo ritocca alcune delle norme previste dalla riforma Madia della pubblica amministrazione. Dal Consiglio dei Ministri arriva il via libera al decreto correttivo sul taglio delle partecipate e anche a quello sui licenziamenti lampo per i furbetti del cartellino. Per gli assenteisti colti in flagrante, l'impianto non cambia, è confermato l'obbligo di sospensione entro 48 ore e il licenziamento in 30 giorni, mentre vengono ritoccati i termini per esercitare l'azione di risarcimento per i danni di immagine alla pubblica amministrazione provocati dai loro comportamenti fraudolenti. Slitta invece dal 23 marzo al 30 giugno la scadenza entro la quale le regioni dovranno presentare gli elenchi delle società partecipate da eliminare. Tra queste figurano quelle che nell'ultimo triennio hanno fatturato meno di 1 milione di euro e quelle che hanno più amministratori che dipendenti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E restiamo a Roma, perché oggi è stata teatro, come molte altre città italiane, della protesta dei tassisti, che prosegue contro le misure sui servizi di noleggio nel maxi emendamento al milleproroghe, definite una sanatoria in favore di Uber e degli abusivi. E ancora sciopero selvaggio. Dopo il caos di ieri, auto bianche introvabili anche oggi. Tra le città più coinvolte, Roma e Milano, dove per il secondo giorno si sono registrati maggiori disagi. Qui l'agitazione spontanea è andata avanti a oltranza, con diverse assemblee, con la garanzia dei soli servizi d'urgenza, come corse per ospedali, disabili e anziani. I taxisti hanno ragione, però dovrebbero fare degli orari almeno. No, non c'è possibilità, non arriva nessuno. È totale proprio sto sciopero. Sono contrario che non venga comunicato, dato che noi veniamo da fuori. La categoria in particolare è contro l'emendamento inserito nel decreto mille proroghe che favorirebbe servizi alternativi come Uber, il trasporto privato tramite applicazione mobile o il noleggio senza conducente, i cui costi, proprio per via dell'assenza di taxi, oggi sarebbero schizzati alle stelle. Dal governo e dai sindacati l'appello a riprendere il servizio, disponibili a trovare la soluzione per un percorso che regolamenti la materia, dice il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Riccardo Nencini. Intanto, ieri l'autorità garante per lo sciopero aveva già marchiato come illegali le modalità dell'agitazione. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo adesso di una sentenza in merito alla discarica dei veleni della Monte di Sondibussi sul Tirino, in provincia di Pescara. La Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila ha stabilito che si è trattato di avvelenamento colposo delle acque. È stata quindi modificata la prima sentenza di 2 anni fa della Corte d'Assise di Chieti, dove il reato non era stato riconosciuto. E ora all'estero, negli Stati Uniti, l'amministrazione Trump, stando a un documento citato dall'Associated Press, sarebbe pronta a mobilitare fino a 100.000 unità della Guardia Nazionale contro gli immigrati irregolari. La Casa Bianca però smentisce, dice al 100% è falso. Ancora vacante intanto il posto di consigliere per la sicurezza nazionale in sostituzione dell'ex generale Flynn, perché avrebbe declinato l'offerta il vice ammiraglio Harvard. E poi ne parleremo. Parleremo anche della nuova copertina del Time, che ancora una volta della rivista americana è su Trump, ma fa un bilancio negativo il Time a un mese dal suo insediamento. Poi, vi dicevo, ci collegheremo con gli Stati Uniti. Parliamo di questo arresto clamoroso. Li Yeong, vicepresidente di Samsung Electronics e di fatto il capo di Samsung Group, il più grande produttore di smartphone al mondo, è stato arrestato a Seoul, in Corea del Sud, con le accuse di corruzione, falsa testimonianza, appropriazione indebita. Li era già indagato da tempo nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria avviata per un presunto versamento di 43 miliardi di won, cioè 35 milioni di euro, a Choi Soon-sil, una conoscenza di vecchia data della presidente, per avere l'appoggio del governo nel passaggio al potere all'interno dell'azienda. E questa notizia invece arriva dall'Ungheria. Il sindaco di un piccolo comune ungherese al confine con la Serbia, a Sotalom, ha bandito con un'ordinanza il velo islamico, la costruzione di moschee e i gay. Laszlo Tozkai, il primo cittadino del centro di 1800 anime, è un noto estremista, fa parte della direzione nazionale del partito nazionalista Jobbik. E qui siamo tutti bianchi, dice, europei e cristiani, non vogliamo immigrati e omosessuali, ha detto la BBC britannica. Nel comune vivono 2 persone musulmane integrate da tempo nella società locale. Quindi, diciamo, mette al bando gli integralisti islamici, ma si comporta nello stesso modo. E parliamo di migranti. In centinaia hanno sfondato la barriera di Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino. Non è l'Europa, Ceuta, ma una enclave spagnola in Africa, stretta tra la recinzione che segna il confine col Marocco e il mare. È quindi assai più probabile che i 500 che hanno saltato la barriera vengano rintracciati, piuttosto che riescano ad attraversare lo stretto di Gibilterra. Eppure hanno festeggiato. Provengono dall'Africa subsahariana, come la maggior parte di coloro che tentano la rotta centro-mediterranea che porta all'Italia, sulla quale lo scorso anno, documenta l'ONU, sono morte più di 5.000 persone. Tanti sono all'opera per salvare i naufraghi. Qualcuno però forse non ha la coscienza tanto limpida, sospetta l'agenzia europea Frontex. Ci sono imbarcazioni di organizzazioni non governative, dice, che incrociano talmente vicino alla costa libica da far ipotizzare contatti con gli scafisti. Per questo la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta conoscitiva sulle piccole ONG proliferate negli ultimi anni. Vogliamo sapere chi c'è dietro, dice il procuratore Carmelo Zuccaro, da dove vengono i soldi che hanno a disposizione e che gioco fanno. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Occupiamoci adesso di acquisizioni. 2 dei più grandi produttori al mondo di beni di consumo si preparano a una potenziale battaglia. L'anglo-olandese Unilever non ha accettato l'offerta di acquisto per 143 miliardi di dollari da parte dell'americana Kraft Heinz. Le trattative però andranno avanti sino al 17 marzo e pensate che dall'unione di Kraft Heinz e Unilever nascerebbe un colosso da più di 240 miliardi di dollari. Ora di nuovo in Italia con la cronaca. Una donna è stata trovata morta nel tardo pomeriggio a Como in un appartamento. Dai primi accertamenti sarebbe stata uccisa a coltellate. Un'altra persona, un uomo, è stato trasportato in ospedale ferito. La vicenda è ancora tutta da ricostruire, ma tra le ipotesi vi è quella dell'omicidio, quindi di un femminicidio, l'ennesimo, l'ultimo è stato ieri, e conseguente tentativo di suicidio. Una notizia piuttosto bizzarra che arriva dalla Germania. L'Agenzia federale tedesca per le reti di telecomunicazioni ha chiesto ai rivenditori in Germania di ritirare dagli scaffali una bambola che potrebbe essere usata come strumento di spionaggio. La bambola si chiama Kayla, è dotata di microfono collegabile via Bluetooth con qualsiasi smartphone nel raggio di 10 metri e dunque, secondo i funzionari dell'agenzia tedesca, qualsiasi estraneo può ascoltare quanto dicono i bambini o addirittura entrare in contatto con loro. Kayla è collegata attraverso un'app a internet e dal web raccoglie informazioni per rispondere alle domande che le vengono poste. L'agenzia federale ha chiesto ai genitori che hanno in casa la bambola di togliere le batterie e renderla inoperante in quanto potenziale strumento di spionaggio, detenzione e utilizzo possono essere punite con 2 anni di carcere per colpa di una bambola. Faranno piangere insomma un po' di bambini. Adesso invece la Juventus sicuramente non piange, Giovanni Capuano, mi pare? No, anzi, tutt'altro. Sta vincendo 1-0 sul Palermo, questo è l'anticipo della 25esima giornata, si gioca di venerdì sera così come il Napoli settimana scorsa, perché poi settimana prossima la Juventus è impegnata nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, fuori casa a Oporto, e sarà mercoledì. Juventus avanti 1-0, siamo nel 32esimo minuto e il gol lo ha segnato Marchisio, al 13esimo un gol sugli sviluppi di un calcio di punizione con l'inserimento di Higuaín e la respinta del portiere del Palermo Posavec, e poi Marchisio che è arrivato in tapine ha segnato a porta vuota, ed è un gol che è ricco di significati perché Marchisio non segnava in Serie A da 643 giorni, in mezzo c'era stato anche un grave infortunio al ginocchio, esattamente 34 partite. Marchisio che è uno dei giocatori più importanti che può trovare Allegri in questa seconda parte della stagione e che dunque contro il Palermo ha trovato il gol che fino a qui tiene i bianconeri in vantaggio per 1-0. È una partita abbastanza divertente, intanto c'è da dire che Allegri ha fatto un po' di turnover, manca Mandzukic per squalifica, ma questo si sapeva, e poi non ci sono Pjanic, Cuadrado e Alexandro, tutti i giocatori che mercoledì a Oporto saranno certamente titolari. Dicevo, una partita abbastanza divertente, la Juventus ha già colpito un palo dopo 5 minuti con Dybala su calcio di punizione, ha avuto un'altra grandissima occasione con Khedira al 21esimo, ma subito dopo il vantaggio di Marchisio è stato bravissimo, come al solito Buffon, a salvare su un'incursione di Nestorovski, che è l'attaccante principale del Palermo e che è andato vicinissimo al pareggio. Dunque partita abbastanza godibile, su ritmi alti, anche se la Juventus è a 5 giorni dall'impegno di Champions League. 33esimo, 1-0 per la Juventus. Grazie Giovanni Capuano, poi ci ricolleghiamo per capire come procede verso la fine della puntata di Effetto Notte stasera. Intanto tra poco parleremo del PD, vedo già i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, dice Mauro da Bologna: ma qual è il problema PD? Il divorzio è un'opportunità in Italia. Ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E eccoci subito insieme, Roberto Giordano sempre con voi, ricordatevi siamo insieme fino alle 22 e accendete ogni sera puntualmente alle 21, da lunedì al venerdì, se volete essere aggiornati sui fatti principali della giornata, in modo che un giorno non dovrete dire io non lo sapevo, perché se sentite Effetto Notte avete il quadro, il riassunto della giornata e poi gli approfondimenti che cominciamo adesso, anche se devo bacchettare Alessandra, questa ascoltatrice che arriva sempre a scoppio ritardato da qualche giorno. Giorni fa ho detto: ma com'è che non fate una sola parola sul ragazzo suicida a Lavagna per l'hashish, e ne avevo parlato il giorno prima. Adesso dice: salve, ma l'atroce attentato in Pakistan nel santuario Sufi con un bilancio particolarmente tragico di morti ormai non fa più notizia? Non ne fate neanche cenno? Ne ho parlato ieri, Alessandra, ne ho parlato ieri. Adesso ci occupiamo di altre questioni, ogni giorno ci sono nel bene e nel male nuove notizie. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per messaggio WhatsApp 349-238-6666. Alessandra, non ti perde le puntate, evidentemente non sei presente dall'inizio con Effetto Notte. Comunque, tra i vostri messaggi, Francesco dice a proposito del rischio scissione del PD: non credo, con la scissione diminuiscono i posti da distribuire, no? E ci dice, cito Del Rio, ai microfoni spenti, poi ne parleremo. Gaetano dice: ma è possibile che fra persone adulte con un'esperienza e spessore politico e culturale ci si riduca a una zuffa come fra ragazzini al campetto di calcio? Dice a proposito di quello che sta succedendo nel Partito Democratico, di cui parleremo tra pochissimo. E poi Davide dice: ci sono sempre state le scissioni nei partiti, ma di che psicodramma parli? Ma dai, dice a me Davide, ma se non è psicodramma questo, nel senso di vero dramma che è comunque dentro il Partito Democratico anche gli elettori stanno sicuramente vivendo. Psicodramma nel senso che poi è anche una cosa fatta molto di rapporti umani, mi pare, no? Questa vicenda anche molto personale, personalizzata. Ne parleremo tra pochissimo con Barbara Fiammeri, ma prima vi ricordo, se non avete acceso puntualmente alle 21 come Alessandra, che non l'ha fatto, vi ricordo i fatti principali. Ultima chiamata di Renzi a Emiliano, che propone una mediazione con primarie in autunno e congresso a partire da giugno. Giallo per quanto riguarda la Guardia Nazionale Antimigranti voluta da Trump. La Casa Bianca smentisce, intanto c'è una nuova tegola sul presidente americano perché l'ammiraglio Harvard rifiuta il posto di Flynn alla sicurezza nazionale. Il Papa oggi ha fatto un bagno di folla di studenti all'Università Roma 3, ha parlato dei senza lavoro, dei giovani nella rete di terroristi o delle droghe. E poi lo stadio della Roma, che continua a agitare il Movimento 5 Stelle, Grillo dice decide il Campidoglio sullo stadio. Intanto oggi manifestazione in Piazza del Campidoglio a favore di Virginia Raggi, hanno detto vai avanti Virginia e i suoi sostenitori. Questa possibile acquisizione tra Kraft e Unilever, la prima offerta è stata rifiutata da parte di Kraft, comunque c'è tempo fino al 17 marzo. Dalle nozze di Kraft e Unilever verrebbe fuori un colosso da oltre 240 miliardi. Via libera ai decreti Madia, licenziamento lampo per i furbetti del cartellino e visite fiscali. E poi ancora la protesta dei taxi che continua in varie città italiane, vari disagi, attesa per l'incontro di lunedì tra governo e sindacati. E siamo quindi ai tormenti del PD. Una settimana questa è stata ad altissima tensione, a cominciare da lunedì, che sapete c'è stata la direzione del Partito Democratico, dalla quale il partito sembra uscito più spaccato che mai, tanto che il giorno dopo Bersani ha detto ma in realtà la scissione è già avvenuta perché il partito, il PD, è diventato il PDR, il partito di Renzi. E poi Emiliano ha detto non si ferma la scissione nei fatti, ormai è finita l'epoca della rottamazione e bisogna costruire, Renzi non è in grado di costruire neanche con se stesso, aveva detto Emiliano nei giorni scorsi. Poi ieri abbiamo parlato di questa lettera appello che Bersani ha mandato alla Huffington Post dicendo fermatevi, si travolge il PD per le velleità di Renzi, viene messa una spada di Damocle sul nostro governo, si trasforma il percorso congressuale in un'immediata e rapida conta, prima deve venire il paese, poi il partito, poi le esigenze di ciascuno. Fassino ha replicato dicendo oggi fermatevi anche voi, però ha detto alla minoranza PD. Ma ci sono nuovi importanti sviluppi già nella giornata di oggi, che è stata molto convulsa, vi dicevo, alla vigilia tra l'altro di un fine settimana in cui ci sarà l'assemblea del PD. In un'intervista al Corriere della Sera oggi Renzi ha fatto un appello alla minoranza, ha detto non andatevene, venite, partecipate, le porte sono aperte, non vogliamo cacciare nessuno. Emiliano si era lamentato stamattina, presidente della regione Puglia, che è candidato alla segreteria del PD, si era lamentato, dice da Renzi neanche una telefonata, basterebbe almeno una telefonata. Poi ha detto vabbè, gli telefono io. In realtà nel frattempo Renzi, che ha telefonato a lui, hanno fatto questa lunga telefonata. Ma non è finita qui, perché in un fuori onda questa mattina il ministro renziano Delrio ha criticato il segretario in un fuori onda durante un convegno, ha detto da Matteo nemmeno una telefonata per evitare la scissione, abbiamo litigato di brutto su questa cosa qui, non si può trattare questa cosa come fosse un passaggio normale, tu devi far capire, rivolto evidentemente a Renzi, che piangi se il PD si divide, non che non te ne frega niente. E poi non risparmia anche critiche ai renziani, dice, lo citava prima un ascoltatore, se pensano che con la scissione loro sono favorevoli evidentemente perché diminuiscono così i posti da distribuire, ma non capiscono un cazzo, ha detto Delrio. Come si fa, ha detto ancora, a non fare neanche una telefonata in una situazione del genere? Poi in realtà si è corretto, ha detto no, con questo appello Renzi ha mostrato tutta la sua disponibilità, non ci sono più alibi. Allora adesso coinvolgo la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore, cara Barbara. Buonasera. Cercherò di fare un riassunto di questo psicodramma e da tutto ciò verrebbero fuori, secondo me, due considerazioni. Una, che anche nella maggioranza renziana evidentemente l'atteggiamento di chiusura totale di Renzi non è piaciuto, dalle parole di Delrio lo sentivamo, e poi questa lunga telefonata tra Emiliano e Renzi ha aperto un canale di dialogo nuovo, si può scongiurare la scissione, Barbara? Allora, aggiungo un altro elemento che secondo me è significativo ed è la riflessione che oggi faceva il ministro Orlando, il ministro della giustizia, che come sappiamo la direzione del PD aveva preso una posizione contro, nonostante facesse parte della maggioranza del PD, però contro la linea Renzi, cioè sì, chiedendo al, al segretario di fermarsi, di fare prima una conferenza programmatica prima del congresso, cioè ad allungare i tempi andando incontro alla minoranza, per essere più sintetici. Oggi che cosa dice Orlando? Dice: attenzione, perché se c'è la scissione del PD il governo non arriva neanche a giugno. Di fatto è un avvertimento che, più che lanciare a Renzi, lancia a Bersani, a chi se ne vuole andare, perché Bersani cosa ha detto? Ah, Renzi deve dire che il governo deve andare avanti fino al 2018, che le elezioni si fanno solo dopo la legge elettorale, eccetera eccetera. In realtà una rottura all'interno del PD significa che non c'è più una maggioranza di governo, perché pensate solo che ci saranno due gruppi parlamentari, cioè, quindi è difficilmente immaginabile che si possa continuare ad andare avanti come se niente fosse. Pisapia ha detto sarebbe una sciagura la scissione del PD. Ma sarebbe per una il paese, per il paese, ha detto. Beh, Pisapia dice questo perché comunque la frammentazione di grandi partiti, come è il Partito Democratico, certamente non aiuta in una situazione che è già complicata di suo. Cioè, noi abbiamo visto che già passare da due blocchi a tre blocchi sta diventando un problema, nel senso che proprio la governabilità diventa un problema, no? Cioè, abbiamo visto che proprio c'è un problema, perché non sei più 50% da una parte, 50% dall'altra, o 40-60%, ma sei 30-30-30%, e quindi diventa difficile poi arrivare al 50% per governare. Figuriamoci se poi uno dei blocchi, già abbiamo il centrodestra che è diviso, si divide pure dall'altra parte il Partito Democratico, Grillo comunque rimane in quella percentuale lì, cioè l'Italia diventa un paese ad altissimo rischio governabilità. Quindi in questo senso, quindi al di là dei problemi del PD, chi vuole andare, chi vuole restare, c'è un problema generale proprio di tenuta del sistema. Barbara, ti volevo dire, a proposito, tu dici frammentazione eccetera, Vincenzo De Luca del PD, nonché Presidente della Regione Campania, ha parlato oggi di rischio balcanizzazione, sentiamolo. Quando si arriva a un punto di balcanizzazione generale della vita politica, come sta succedendo in Italia, allora il rischio reale è che ci sia davvero un allontanamento dei cittadini dalle istituzioni democratiche, dalla democrazia. Cioè si rischia di dare vita ad una situazione nella quale, per una persona normale che ha 3.000 problemi, di cui le chiacchiere della politica politicante non tengono conto nel modo più assoluto, cittadino normale sarà disponibile anche ad un regime autoritario, quale che sia, pur di farla finita. Questo ha detto che De Luca, che ne pensi, Barbara? Lui parlava di balcanizzazione in generale sulla vita politica, anche per esempio nel centrodestra. Sì, è un po' il ragionamento che stavo facendo poco. Come dire, la storia ci dice che poi, quando si esagera, il rischio poi di una reazione c'è. Ora, senza arrivare a fare paragoni con la storia, però insomma, cioè, che ci sia un distacco, e secondo me questo è l'elemento fondamentale di questa crisi del Partito Democratico, sinceramente, ma anche della stessa minoranza, che accusa Renzi di un delirio di onnipotenza, no? Cioè, come dire, Renzi pensa solo a Renzi e alla sua smania. Però in realtà anche la minoranza, mi sembra, che parla del disagio sociale, parla, però non lo intercetta, perché poi sembra sempre una discussione quella che, ma la vediamo in questi giorni, in questo mi ritrovo con quello che dice De Luca, cioè parlano solo di loro, cioè parlano di sé, parlano delle date del congresso, parlano del governo come di, cioè, ma non di che cosa si deve fare. Allora, a questo non proposito, di come risolvere i problemi. Barbara, stai dicendo giustamente, ti faccio sentire cosa ha detto Fratoianni, candidato alla segreteria di Sinistra Italiana, che oggi sta tenendo in questi giorni a Rimini il suo congresso fondativo Sinistra Italiana. Lo ha intervistato Vincenzo Miglietta, sentiamo. Un punto per chi pensa che sia necessario ricostruire un partito, una forza politica di sinistra, perché è capace di rimettere in ordine le priorità che abbiamo davanti, capace di discutere di merito, di contenuti, di proposte, capace di mettersi al fianco e di farlo in modo chiaro, netto, senza tentennamenti di chi sta in basso, di chi è rimasto indietro, di chi subisce di più il peso della diseguaglianza, della marginalità, dell'esclusione, della precarietà che cresce. La sinistra serve a questo, noi vogliamo essere questo, senza presunzione di autosufficienza, senza arroganza, con la curiosità, la disponibilità, spero, se ci riusciamo, l'intelligenza di potersi confrontare con tanti e tante che oggi discutono nel PD, fuori dal PD, però con una sola condizione, o meglio con una sola richiesta, una sola proposta, facciamolo sul merito delle questioni, confrontiamoci su come si fa a migliorare la vita di chi una vita buona non ce l'ha. La sinistra è utile se fa questo. Che dici? La sinistra è utile se si concentra sui veri problemi delle persone? Vari ascoltatori stanno dicendo basta con questo parlare del PD, noi abbiamo altri problemi. I nostri ascoltatori secondo me hanno perfettamente ragione, anche queste parole di Fratoianni, non c'è una proposta in quello che dice, non c'è una cosa che dice che i nostri ascoltatori possano percepire come una proposta, anche sbagliata, uno poi può non essere d'accordo. Ma invece quello che arriva sono soltanto delle chiacchiere, cioè il volersi arrogare, mi sembra di rivivere un po' un film del passato, no? Cioè io voglio rappresentare il disagio sociale, d'accordo, ma forse questo disagio sociale tu non hai capito dove sta andando e che cosa serve a questo disagio sociale per sentirsi rappresentato. Il Movimento 5 Stelle lo ha capito. Perché non a caso, io faccio questo esempio anche quando parlo per esempio con esponenti anche della minoranza del PD o di altri partiti di sinistra, ma scusate, noi abbiamo avuto le elezioni a Roma dove si è presentato Fassina, che era il primo scissionista del PD, e ha preso il 3% dei voti. A Torino, Airaudo, cioè un notissimo sindacalista della FIOM, cioè uno che ha fatto la storia del sindacato da quelle parti, si presenta contro il PD autonomamente e fa una figura barbina e vincono, come sappiamo, a Roma ha vinto la Raggi e a Torino ha vinto l'Appennino. Allora, se diciamo Roma, Mafia Capitale e tutto il resto, va bene, lasciamo perdere Roma, ma Torino ha perso il PD, ma ha perso anche quella sinistra lì. Che cosa significa questo? Significa che tu che dici di voler intercettare il disagio, di dare una risposta, in realtà non lo intercetti, non sei una proposta, non rappresenti una valida alternativa, non lo sei, se no l'elettore ti premierebbe e invece non ti premia, quindi vuol dire che tu non riesci più a parlare con i tuoi interlocutori, quelli che dici che sono i tuoi interlocutori. Cioè la sinistra è rimasta veramente per molti anni abbarbicata su delle idee che però erano idee e non si sono trasformate in fatti. Anche per esempio faccio un esempio anche molto concreto, no? La sinistra è stata la sinistra è stata il partito del rigore, cioè noi avevamo i governi di Prodi che facevano il riequilibrio dei conti, le manovre per riequilibrare i conti, e poi avevamo i governi Berlusconi che andavano di nuovo in disavanzo. Di solito è il contrario, no? Storicamente di solito è la sinistra che fa debito e la destra che invece conserva ed è più rigida, cioè la Thatcher per esempio, da noi era il contrario, quindi la sinistra ha sempre espresso, in Italia parlo, negli ultimi anni, una parte del paese che si riconosceva in certi valori come appunto il rispetto delle regole, la rigidità, il rigore, questa era un po' l'idea, no? Anche il governo Ciampi, cioè persa quel treno lì, cioè dal momento che poi i fatti che c'è una crisi di identità, Barbara, vedremo come finisce questo fine settimana. Noi adesso ci dobbiamo lasciare, ci sono molti ancora messaggi, poi magari ci sarà tempo di leggerli. Io intanto ti ringrazio, Barbara Fiammeri, ti auguro buon fine settimana. Anche a voi. Ciao, grazie Barbara. E per esempio due messaggi contrapposti. Massimo che dice: Speranza, D'Alema, Bersani ed Emiliano sono un fardello, l'unico obiettivo che hanno è logorare Renzi da qui al 2018, fuori e voto subito, dice Massimo, mentre Gianni da Bologna dice: io non voto più il PD perché da tempo non è più un partito di sinistra. Continuate i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure per WhatsApp ed SMS 349-238-6666. Ci sentiamo a momenti. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora con i fatti da approfondire. All'inizio il riassunto della giornata, per chi non l'avesse seguito alle 21, vi ricordo tra poco i fatti principali. Poi abbiamo parlato ampiamente dello psicodramma del PD, nel senso vissuto proprio come un dramma. Siamo nelle ultime ore decisive, perché domenica c'è l'assemblea del Partito Democratico, bisogna capire se effettivamente ci sarà questa scissione o meno. Avete sentito l'analisi di Barbara Fiammi. Poi, a proposito dei vostri messaggi, al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio, dice per esempio questo ascoltatore: ma nessuno si ricorda il pentapartito. Sì, certo che ce lo si ricorda, ma l'obiettivo sarebbe proprio quello di non doversi alleare in modo frammentato tra tanti partiti, in modo proporzionale, perché uno tira da una parte, uno dall'altra, diventa complicato governare, visto che sembra che l'obiettivo maggiore sia la governabilità. Poi Mauro da Rimini dice: ciao Roberta, ti ricordo quando Bertinotti fece cadere il governo Prodi, che delusione, nessuno pensa a chi lavora con fatica tutti i giorni. E poi un altro ascoltatore che si dice simpatizzo, non simpatizzante, sottolinea, dice: non capisco la scissione, che senso ha? In un partito normale si discute, si litiga, ma poi si segue la maggioranza e il segretario senza fare fronda. Si sono accorti adesso che Renzi è il segretario e che portando il partito al 40% era inevitabile che avesse un po' di arroganza? Bersani, pur essendo stato un bravo ministro, è stato anche un bravo perdente, così scrive Claudio. Adesso vi ricordo quali sono i fatti principali e poi passiamo al prossimo tema. Il travaglio del PD, giornata convulsa in cerca di una mediazione per scongiurare la scissione, telefonata di Renzi a Emiliano che propone le primarie in autunno e il congresso a partire da giugno. E a Rimini, Sinistra Italiana ha aperto oggi il suo congresso fondativo. Statali, approvati i decreti per i furbetti del cartellino, via libera al licenziamento entro un mese. Stati Uniti, proposta senza precedenti di Trump per stanare i clandestini, utilizzare 100.000 uomini della Guardia Nazionale, ma la Casa Bianca smentisce, tra poco ne parliamo. Movimento 5 Stelle, lo stadio della Roma agita i pentastellati, ma Grillo ammonisce la deputata Lombardi e dice: decide il Campidoglio, sostenitori della sindaca oggi in piazza. Virginia, non sei sola. Migranti in centinaia sfondano la barriera a Ceuta, oltre 5.000 morti nel Mediterraneo nel 2016. Tassisti, prosegue la protesta contro il noleggio, servizio non garantito a Roma e Milano. Ancora un femminicidio in un appartamento a Como, trovata una donna uccisa a coltellate e un uomo ferito, si ipotizza un omicidio e un tentativo di suicidio. Corea del Sud, arrestato Lee Jae-yong, proprietario e vicepresidente di Samsung, accusato di corruzione. Acquisizioni, Kraft mette sul piatto 143 miliardi per Unilever, ma gli olandesi respingono l'offerta. Germania, allarme per la bambola spia, le autorità chiedono il ritiro, si chiama Kyla, si collega con smartphone e via app a internet. E per il calcio, per l'anticipo di Serie A, Juventus-Palermo, la Juventus in vantaggio per 2-0. Ci colleghiamo invece adesso con gli Stati Uniti, con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore. Caro Marco, ogni giorno qui c'è da aggiornarci perché è un'attività frenetica quella di Trump. Si parla di questa proposta, ciao Marco, dell'amministrazione Trump sull'immigrazione, che sta facendo molto discutere, anche se la Casa Bianca ha smentito, cioè 100.000 soldati della Guardia Nazionale per stanare gli immigrati irregolari. Sì, diciamo è una proposta che è contenuta in un documento che è stato svelato dalla Associated Press, un documento di 11 pagine in cui appunto si delinea la possibilità di mobilitare la Guardia Nazionale, quindi le truppe statali americane, nella lotta all'immigrazione clandestina. Sarebbe una militarizzazione senza precedenti appunto nella gestione per usare un eufemismo, dell'immigrazione. Come ricordavi, la Casa Bianca ha smentito a metà, come spesso fa in queste circostanze, cioè ha detto: assolutamente non ci sono piani, non ci sono progetti per rastrellamenti, per retate di immigrati clandestini con la Guardia Nazionale. E poi però Sean Spicer, il portavoce, ha precisato: ma non posso escludere categoricamente che se ne sia discusso. E evidentemente discusso, Associated Press ha detto che è tuttora in discussione il documento, è stato visto, sono 11 pagine, ci sono le quote del documento, il piano quindi non è attivo, ma è in discussione, prevede appunto che possano partecipare volontariamente, perché la Guardia Nazionale viene gestita dai singoli stati, dai governatori dei singoli stati e non dal governo federale, salvo casi d'emergenza, però ecco, prevede una partecipazione volontaria consigliata dall'amministrazione a questi 11 stati che appunto mobiliterebbero le truppe per controllare non solo il confine con il Messico, ma anche tutte, diciamo, le regioni limitrofe. Questi 11 stati comprendono quelli, diciamo, tipo California, New Mexico, Texas e gli altri, diciamo, lungo la fascia meridionale, ma anche stati più a nord come l'Oregon e in tutto 11 stati che ospitano al momento, secondo le stime, metà almeno degli 11 e oltre milioni di clandestini che vivrebbero negli Stati Uniti. Quindi potenzialmente si potrebbero immaginare retate di massa se il piano venisse davvero messo in atto. Senti Marco, a proposito scusami. Sì, sì. Prego. No, dicevo, a proposito della sicurezza nazionale, tra l'altro, c'è dopo che nei giorni scorsi è dovuto dimettersi Flynn, l'ex generale, per diciamo una specie di conflitto di interessi con la Russia, adesso mi pare che anche un altro candidato, Harvard, viceammiraglio, abbia declinato l'invito. Sì, è così, così è stato. Infatti, infatti l'altra novità di oggi è il continuo così caos all'interno dell'amministrazione stessa, il gran rifiuto di Robert Howard, che era il candidato per Trump a rimpiazzare Mike Flynn come consigliere di sicurezza nazionale, posizione molto delicata e importantissima a fianco del presidente. Bene, Howard ha detto no, ha detto non ci sto a diventare il tuo consigliere di sicurezza nazionale. Da quanto è trapelato, ufficialmente ragioni personali, ma da quanto è trapelato, Howard era molto combattuto nel considerare l'idea di entrare nell'amministrazione Trump. Aveva posto alla fine una condizione non negoziabile, dice: verrei se posso portare con me una mia squadra, il mio staff. Trump ha detto di no, perché lo staff è suo invece, e quindi a quel punto Harvard ha semplicemente detto no. Beh, Marco, proprio per chiudere, abbiamo ancora poco tempo, c'è il Time che ha anticipato la sua copertina, uscirà poi il prossimo 27 febbraio, la rivista americana prestigiosa dedica nuovamente la copertina a Donald Trump e lo raffigura mentre è seduto alla sua scrivania nello studio Ovale, tra pioggia, vento, un ammasso di carte che viene spazzato via, e fa un bilancio negativo dell'amministrazione Trump a un mese dall'insediamento. Ne hai notizia di questa copertina in un minuto? Direi che la copertina, se non, diciamo, in questi tempi le cose cambiano molto molto in fretta, ma se non cambierà perché succede qualcos'altro è ancora più scioccante, sicuramente riflette in maniera abbastanza adeguata a quella che sono stati i primi 100 giorni, i primi 30 giorni di questa amministrazione. Un caos molto molto profondo, scontri istituzionali molto gravi. Oggi il senatore John McCain, repubblicano, parlando da Monaco alla conferenza per la sicurezza, ha detto, ha ammesso, che questa amministrazione sembra nel caos. Caos forse è l'unica cosa che può riassumere lo stato dell'attuale. Grazie Marco Valsania dagli Stati Uniti. Ciao Marco. Grazie a voi. Direi il momento della viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Tra pochissimo spazio europeo, vi ricordo adesso tra poco i fatti principali. Fabio da Genova intanto scrive: vi ricordate quando Nanni Moretti in un film diceva, rivolto a D'Alema, di qualcosa di sinistra? Ora si dividono perché Renzi non difende più i deboli, dice così Fabio. 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti. Vi ricordo i fatti principali, sono appunto questo ultimo tentativo di mediazione nel PD tra Renzi e Emiliano, quindi tra maggioranza e minoranza del Partito Democratico, in vista dell'assemblea che ci sarà nel fine settimana. E poi giallo, ne abbiamo appena parlato, sulla Guardia Nazionale Antimigranti che vorrebbe Trump per la sicurezza nazionale, per stanare i clandestini. La Casa Bianca però smentisce. E poi oggi il Papa ha fatto un bagno di folla di studenti all'Università Roma 3, ha parlato dei giovani senza lavoro e dice ostaggio della rete di terroristi o delle droghe. E poi lo stadio della Roma che agita il Movimento 5 Stelle, Grillo dice decide solo il Campidoglio sullo stadio, Virginia

Sandro, già non gioca Mandzukic fuori per squalifica. Insomma, Allegri sta cominciando anche a pensare alla trasferta di Oporto di Champions League di mercoledì. Decimo minuto, 2-0 per la Juventus sul Palermo. A Torino, a te la linea. Grazie Giovanni Capuano. E adesso la linea invece al nostro portatore sano di sole, sarebbe anche ora, Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caro Paolo. Buonasera Roberto, ma qui sarebbe ma febbraio, Roberto, è pieno inverno, tu vuoi subito l'estate. Scusa Paolo, in piazza del Duomo a Milano ci sono le palme e i banani, tra poco arrivano e non abbiamo il sole. Devo darmi da frio. Va bene, allora in realtà guardate, non fate il cambio d'armadio, ancora un po' di pazienza, anche se è vero, andate di freddo, secondo me non ne arriveranno più, però anche questo fine settimana, ad esempio, sulle regioni adriatiche sarà molto movimentato, domani passeranno degli acquazzoni che al momento stanno interessando il Triveneto e l'Emilia Romagna e appunto domani li ritroveremo sul versante adriatico. Domenica però bel tempo in tutta Italia, settimana prossima grandi cose non capiteranno, però è probabile che l'inizio di marzo sia particolarmente movimentato, quindi insomma per ora siamo un po' sul chi va là. Grazie Paolo Corazzone, buon tempo a te comunque sia. Ciao, buon tempo a tutti. Ciao Paolo. Noi ci dobbiamo lasciare, ringrazio Claudio che dice è un piacere ascoltare la sua trasmissione da Medeltour, la radio fatta così vale 100 trasmissioni televisive, spegnete la TV e sentite la radio. Ci sentiamo alle 22.